Vangelo di San Giovanni, capitolo terzo. Or v'era fra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte a Gesù e gli disse: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose dicendo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né donde viene né donde va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità, io ti dico che noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo di quel che abbiamo veduto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene, non credete? Come crederete se vi parlerò delle cose celesti? E nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figliuolo dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliuolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliuolo di Dio. E il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Poiché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non siano riprovate. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le opere sue siano manifestate, perché son fatte in Dio. Dopo queste cose, Gesù venne coi suoi discepoli nelle campagne della Giudea. Qui vi si trattenne con loro e battezzava. Or anche Giovanni stava battezzando a Enon presso Salim, perché c'era là molt'acqua e la gente veniva a farsi battezzare, poiché Giovanni non era ancora stato messo in prigione. Nacque dunque una discussione fra i discepoli di Giovanni e un giudeo intorno alla purificazione. E vennero a Giovanni e gli dissero: «Maestro, colui che era con te di là dal Giordano e al quale tu rendesti testimonianza, eccolo che battezza, e tutti vanno a lui». Giovanni rispose dicendo: «L'uomo non può ricevere cosa alcuna se non gli è data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma son mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Questa allegrezza, che è la mia, è perciò completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall'alto è sopra tutti, colui che viene dalla terra è della terra e parla come essendo della terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti. Egli rende testimonianza di quel che ha veduto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. che ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è verace, poiché colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. Il padre ama il figliuolo e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui.